No, non è mica andata così. Bam! Bam! Bam! No, dai. Massa facile, no? Troppo facile. Ah, ricordate, mi raccomando. Massa vuol dire troppo. Massa vuol dire troppo. Eccomi qua. Figlio unico. L'unico erede. Dopo di me basta, chiuso bottega, ma tranquilli. Tranquilli, questa qua non è una storia triste, no. In questo spettacolo qua non c'è da piangere, c'è solamente da ridere. Dall'inizio alla fine, veramente. In questo radiodramma qua c'è solamente da ridere. Dall'inizio alla fine, occhio però. Occhio a non ridere. Massa, troppo. Wow! Voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto beatamente. Voglio vivere e goder l'aria del... In questo spettacolo qua non canto. In questo spettacolo invece ballo, ma poco, sì. E se la tournée la va ben, mi compro la Aston Martin, anche a massa. Ok, la storia è molto semplice. La mia famiglia sono 3 generazioni che fanno infissi in alluminio e mi sono rotti i coglioni. Se prima eravamo in 3 a ballare l'Aligalli, adesso siamo in 2 a ballare l'Aligalli. Eccolo qua. L'impero dell'alluminio. Infissi in alluminio, destinati a durare a lungo ed in perfetta efficienza, i profili migliori e le tecnologie più avanzate. Il nostro cavallo di battaglia, Aluclick, la finestra che ti fa raggiungere il massimo del comfort. La finestra dei tuoi sogni, disponibile in tutte le verniciature, anche effetto legno. Sì. Sono bravo, sì, lo so. Sono bravo. Però la gente la pensa che mi mangerò fuori tutto. La gente la pensa tante robe, ma a me non me ne c'è un cazzo. Perché tanto io non c'ho niente da nascondere, ok? Io non c'ho alcun problema. Non c'ho alcun problema. Oddio, un problema ce l'ho. Piove. Sono 6 mesi che piove. Non ha mai smesso neanche un giorno, mai. E a me l'umido mi rende nervoso, sì. Oh, tante cose mi rendono nervoso, ma l'umido un po' di più. Io lo so cosa pensano. Pensano che alla fine l'occupa a me, mi pare che l'ho ucciso io. Ma sì, ma solamente perché al funerale ero petenama sa ben e non piangevo abbastanza. Sarà cazzi mei de quanto che piango i funerali o no? Anche a mia mamma la che è stata male. Oh, anche perché al funerale piangeva tutti, eh? Ma proprio tutti, ma tipo sarà state 3.000 persone, sì, la chiesa piena, dentro e fuori. Dentro, pianti, applausi, e il coro, organi che suonano, no, guarda, veramente, un funerale invidiabile. La verità è che io sono abituato ai cimiteri, perché quando ero piccolo mio nonno mi accompagnava sempre ai funerali dei suoi amici o anche di chi che non conosceva, perché mi diceva: ricordate, boccia, che è molto meglio compagnar che essere accompagnati. Sarà per quella, ma io alla fine ai funerali ci sto bene. A me, ai cimiteri, non mi viene poi così tanto da piangere. E comunque non sono stato me, no. Mio papà è morto schiacciato sotto al muletto. Bam! È stato un incidente. Sì, è stato un incidente. Oddio, questione di tempo e sarebbe anche successa. Ma sì, dai, ma voglio dire, a sa perdere la questione affettiva, a sa perdere, cioè superata quella, tutti dovrebbero farlo. Tutti. Tiki-kita! Tiki-kita! tiki tiki tiki tiki tiki kita tiki tiki tiki tiki tiki kita tiki tiki tiki tiki tiki tiki kita brum baba tiki tiki kata tiki tiki kata ta tiki tiki tiki tiki tiki kita tiki tiki tiki tiki ta. Ti racconto una storia vera. Ascolta il mio ragionamento, seguimi via in medrio, va bene? In Australia esiste una specie di scarafaggio grande così, come un pugno, maschio e femmina, e ciava solamente un giorno all'anno. Puaretti. Dopo 3 mesi viene fuori una schifezza piccinina, mola, scura, che in tel giro di 9 settimane la diventa più grande, più scura e più dura. E appena che la riconosce l'odor de soppare, bam! L'occupa. Tutti dovrebbero farlo, tutti. Sì, stabilire un'età precisa, un limite massimo, che so, 20 anni, e quando arrivi a 20 anni, bam! Copito pare, o chiaramente sei obbligato a fare un figlio, che a sua volta verrà ucciso da suo figlio e avanti così. Se proprio non te la senti, toppare lo polco pare anche a qualche d'un altro. Tu però il padre di qualcuno lo devi uccidere, scusa. Mi copito pare, ti copa me pare, o no, escluderei un criterio casuale. C'è il rischio che ti tocca di uccidere il padre di un tuo amico a cui volevi più bene che al tuo. No, guarda, meglio stabilir subito. Me pare te sta sui coglioni, copalo ti. Mi toppare non posso vederlo, lo coppe mi. Ma in generale, per non far massa confusione, ti copa toppare, che mi pare lo copi mi. Sto scherzando? Dai, su, avanti. Sondrio a scherzare, è un gioco, è un gioco. Non sono stato me. No, non sono stato io, no. Anche perché io lo so chi è stato... Francesco, sì, è un africano, ma si fa chiamare così. Francesco lavora qua da noi altri. No, in verità si chiama. Aspetta, si chiama. Ma che si chiama? Comunque è stato lui, sì. No, non ha mica fatto apposta. Ma no, ma figurati. Ma gli operai loro ci volevano bene, a me pare, al paron. E anche lui gli voleva bene a loro, sì, po'. Un'impresa familiare, esattamente, dove gli operai sono come figli. E i figli come operai. Familiare. Oh, questo imbaradan qua lo attira su me nonno. Bravo. E dopo? Dopo mio padre lo ha ingrandito. Bravo anche lui. E adesso? Adesso io voglio darci un giro al business. Cioè... ristrutturare l'azienda, bam! Sì. Cioè vendere fuori tutto e star tranquillo, andare a vivere al caldo, pacifico, bello, no? Ma proprio tranquillo. Cioè, ti dico una cosa, io vivo troppo al di sotto delle mie possibilità. Non l'hai capita? Allora te la rispiego. Io vivo troppo al di sotto delle mie possibilità. Nessuno dovrebbe vivere al di sotto delle proprie possibilità. Nessuno. Ti faccio una domanda. A te, proprio te che tu sei là a casa, che tu sei di ascoltarmi. Ascolta bene. Concentrati. Però non sta a rispondere la prima roba che ti viene in mente come al solito, ok? Ti faccio una domanda molto precisa. Diciamo che io domani ti regalo una Porsche, tu cosa fai? Aspetta, non sta a rispondere subito, aspetta, prima immagina, ragiona, visualizza. Tu domani mattina ti alzi, ti svegli e invece di andare a lavorare con la Fiat Marea Station Wagon vai a lavorare con la Porsche. Aspetta, lo so, magari a te la Porsche non ti piace neanche. Guarda che non è un problema, io non mi offendo, la Porsche te l'ho data, è tua, ci puoi fare quello che vuoi, la puoi anche vendere. E i soldi sono tuoi. Cosa fai? I soldi piacciono a tutti, ricordatelo. I soldi piacciono a tutti. Ma a me un po' di più. E allora? Non posso essere liquidato. Io voglio solamente quello che mi aspetta la mia parte. È già in tel garage. Basta solamente tirarla fuori. Ma niente, perché c'è una clausola nel testamento che dice che finché vive mia mamma qua comanda lei e io valgo meno di un operaio. Chi la coppa quella là? Rimasta mal per la storia del funeral, capisco. Ma sono passati mesi e dice che a sto punto sarebbe quasi meglio che io morissi prima di lei. Io prima di lei? Ma è innaturale. Dice lei che io al papà non gli ho mai voluto bene. Eppure lui non ha mai alzato una mano. Io invece mi ricordo una sera che voleva battermi. E allora io sono scappato su da mio nonno che stava già in la sedia a rotelle. L'ho ciappà, l'ho girà, l'ho ricciappato ai maneghi. E quando è arrivato mio padre furioso, ce l'ho tirato contro e mio nonno che urlava: non sta neanche a provare a toccarlo al boccia. Dice lei che a me il nonno mi ha viziato un po' massa, che mi ha sempre comprato tutto quello che volevo e che fin da quando che son boccia sono io che penso di comandare qua dentro. Adesso basta. Adesso basta. Sbassa Yoshi! È vero che una bella schiena solida, come me pare, effettivamente era difficile avercela. Oh, 40 anni di lavoro e neanche un giorno di mutua. Eppure, sotto il muletto, la sua schiena non è bastata neanche a lui. Se lui stava a far conti invece che intassar seramente, sì. Oh, al funeral un operaio ha detto che con gli anni sarebbe anche migliorato. Si può. Vecchio e saggio. Ehi, non basta mica diventare vecchi per diventare saggi. Se nassi semo, col passare degli anni non diventi saggio, solamente più semo. Ma io non ci sono mai cascato. No, mai. Io non sono un operaio. No, ora tu sei lì a casa, non mi puoi vedere, però ti assicuro che io non sono un operaio, non sembro neanche un operaio, no, cioè proprio non c'ho la faccia da operaio, non sono vestito come un operaio, cioè io annuso, sento, io capisco, io non ci casco. Non ci sono mai cascato. Vabbè, dai, che facciamo? Andiamo avanti? Ma sì. Dai, vi racconto una storia. Sì, anche perché ballare non ballo, cantare non canto. Allora almeno vi racconto una storia. È una storia che mi raccontava sempre mio papà quando ero piccolo. Oh, non so perché, ma mi faceva proprio morire da ridere. Ma proprio mi pisciavo addosso. È la storia di Tony Mentina e il meccanico Orbo da un occhio, che si è fatto ciavare l'officina da mio padre giocando a scala 40. Cioè, a scala 40? A poker capisco. No, perché qualche milionato l'ho persa anche io, ma qualche milionata l'ho anche vinta. Sì. Oh, fortunato come mi pare. Mi sono fatto l'idea che la fortuna deve essere com'è che si dice? Ereditaria, si dice ereditaria. Sì, perché anche mio nonno, quando era giovane, giocando a carte, aveva vinto un cavallo. Quello che ha perso diceva che non era vero niente, che lui era ubriaco e che mio nonno gli ha fatto firmare non so che contratto. Bisogna saper perdere. Ciao Tony Mentina, è il meccanico. Lui per esempio non ha mai parlato, mai. Anzi, quando è cominciata a girare la voce che aveva perso tutto, In giro dicevano che si era tirato via da una strada e che aveva pagato i debiti. Grazie a me pare. Business. Business, ricordati, è tutto, tutto business. E all'inizio io ridevo, non so perché, ridevo. Mi faceva ridere pensare a Tony Mentina che tornava a casa storno, imbriaco, inciampando. Però poi a un certo punto ho smesso di ridere a sta storia. Ho smesso di ridere a tutte le storie di mio papà. Se io lo guardavo e lo fissavo e c'aveva paura. C'aveva paura. Sì. E la paura, ricordati, fa business. Fa business, business. Mi raccomando, Allora, business, si scrive business, ma se dis business, ricordate, si scrive business, ma se dis business, ok. Il business della baracca adesso lo mando a... No, ecco, baracca invece, se scrive baracca e se dis baracca uguale compagna, ok. Concentrate, non sta a straviarte. Allora, il business della baracca adesso lo mando avanti io. Sono un drago. Anche se a me, in verità, mio papà mi mandava in giro solamente a far firmare contratti. A me? A far firmare contratti a me? Una volta ho sentito un rappresentante di forgiatrici che diceva a mio papà che il vero problema adesso è il turnover, il passaggio generazionale di padre in figlio. Mio papà faceva sì con la testa, ma in verità non capiva un cazzo. Non hai mai capito un cazzo. E allora, siccome che io la sera mi rompo i coglioni, no, andare in giro a far firmare sti cazzo dei contratti, la sera, quando posso, cerco una bella piazza, no, che mi ispira, e la squadro tutta al ritmo, cioè la ripercorro tutta, no, come se avessi una specie di musica dentro il cranio, e in base alla musica faccio le traiettorie, cioè capisci? L'importante è passare solamente in telefessure, cioè marcare i contorni, il perimetro, no, di tutti quanti i lastroni, ma senza passare pal pieno. Oh, all'inizio è difficile, sia chiaro, perché a volte, no, c'hai dei lastroni tutti quanti enormi che sono tagliati storti e devi camminare solamente in dei bordi, no? Devi fare gli angoli e poi aumenti, via, vai, vai, vai, vai, cioè, capito il meccanismo, Lena Monada, sia chiaro, è che se non stai attento ti fai prendere un po' la mano, no? Il ritmo aumenta in te il cranio e salti di qua e di là. Oh, una sera forse ho cominciato anche a cantare, forse cantavo anche forte, ero tutto concentrato, no? A saltare esattamente in te le linee, a squadrare perfettamente, ero tutto intorcolato, ingroppato, e quando che mi son girato, i carabinieri. Cosa fai lì? Ma no, niente, squadro. Cioè, ballo e canto anche. Perché? Non si può. Ma sono delle ore che sei qui che stai disturbando. Ma io non do mica fastidio a nessuno. Beh, comunque non puoi più farlo. Cosa? Di cantare e di squadrare invece. Ah, avranno pensato che ero scemo. Ma dai, su, stavo solo giocando, è solamente un gioco. Oh, carabinieri e finanza, senza umorismo, senza umorismo. Il giorno dopo ho fatto firmare un contratto milionario, roba da tanti soldi, un'intera facciata dei infissi. Quando ero piccolo, mio papà arrivava da dietro, mi metteva le mani nelle orecchie e mi tirava verso l'alto e forse tirava un po' di più di quello che pensa. Un contratto milionario, milioni e milioni di serramenti ed infissi, una roba, e mi tirava verso l'alto e diceva: vuoi vedere Venezia? Vuoi vedere Venezia? Hai mai visto Venezia? Quando che sono tornato il giorno dopo col contratto firmato, mio papà mi ha detto che ero andato lì per quello. Vuoi vedere Venezia? Ti enduro, ti enduro, boccia, saldo che tu vien grando, saldo che tu vien grando, saldo che tu vien grando. Non ho mai visto Venezia, mai. Una volta invece sono stata a Venezia, sì, con la Silvia, ma non c'ho un bel ricordo. No, la Silvia era una figa, una roba da paura, una figa imperiale, sì. Ho 3 anni siamo stati insieme, sì, io e la Silvia, durante il liceo. No, non di seguito, no, da settembre a giugno, sì. Estate pausa come a scuola. Oh, un'estate mi sono fatto anche Miss Italia. Cioè, la tipa è diventata Miss Italia l'anno dopo, mentre il medagliere vale uguale. L'ho conosciuta perché... Oh, una figa. L'ho conosciuta perché dalle nostre parti c'è un convento dove è il martedì e il venerdì, mi sembra. Martedì e venerdì fa gli incontri per leggere il Vangelo, quelle robe lì. Sì, ci andavano anche i miei. Adesso non ci vanno più. Beh, lì una volta d'estate invece facevano i ritiri spirituali per le ragazze che volevano farsi suore. Io non dico niente, ma secondo me a occhio non le sceglievano tanto bene. Di suore da lì dentro ne sono uscite poche, secondo me, veramente. Cioè, vocazione poca, voglia tanta. Sì, noi passavamo ogni sera da dietro, no, dove c'era l'orto di carote dei frati. Bussavamo le finestre, loro ci aprivano, noi entravamo e... Beata Vergine Santissima Benedetta. Ripeto, io in un mese quelle lì non le ho mai viste con un rosario in mano, mai! Mai, tutte con le gambe lunghe e il sgaretto al fin. Io non so chi che faceva i casting per le suore in quel periodo, ma aveva i miei stessi gusti. Ma sì, te diede sì, i miei stessi gusti, uguali compagni. Sì. No, le suore, quelle vere, secondo me sapevano tutto, per quello non ci hanno mai beccato. Sì. No, i frati invece una sera ci hanno corso dietro. Cattivi, io credevo che fossero incazzati per via delle carote, no? Cattivi come bracconieri, in due, sì. Un guidava schivando i cipressi e quell'altro sentante al finestrin che ci tirava col fusile a balettoni. Quando che l'ho rivisto quel frate là qualche mese dopo il funerale del mio nonno, gli ho tirato un cartone sul muso. Gli ho chiesto perché. Perché tu mi devi spiegare perché? Tu piangevo. Quella è stata la prima e unica volta che ho pianto a un funerale. Tu mi devi dire perché? Tu mi devi spiegare perché in quattro mi hanno tirato via dopo che l'ho attaccato là entro il crocifisso in faccia al Padre Eterno. In quattro, sì. In quattro mi hanno tirato via fuori dalla chiesa. Io ancora là col calice della comunione in manca gli urlavo: ciappalo qua! Ciappalo qua, sacro grado! Ciappalo qua! Ciappalo qua! Altro che carote. Il frate l'ha beccato un mese dopo che slungava le mancole superiora e da allora lì i ritiri spirituali non l'hanno più fatti, no. La Silvia non l'ha mai capito perché che vuole battere al frate. La Silvia, bacca. Tre anni siamo stati insieme. Tre anni. E che poi suo papà è morto a far rafting in Slovenia e lì ci siamo lasciati. Ma sì, perché io l'ho detto che secondo me suo papà in Slovenia non andava a far rafting, andava a Troie Casino, che lo sapevano tutti quanti. E lei: come cazzo ti permette di parlare così di mio papà? Bimba, tranquilla, ok? Guarda che non c'è alcun problema andare a Troie Casino, e che magari tuo papà ha pestato i piedi a qualcuno, e allora è meglio capirla sta storia. Se ci apre in 4-5 di quei boni, se fa un salto su Porto Rose e se sistema la faccenda. Finita. Vacca. All'ho rivista la Silvia, sì. Sì, qualche tempo fa. Ha messo su un po' di culo. Meglio così. A quel punto là ho smesso anche ad andare a scuola, tanto son mil paron. Mi vedo ancora ogni tanto con i ragazzi, coi fioi, sì. Magari facciamo qualche cenetta, una roba tranquilla, dopo facciamo giusto un giretto per tirare su un po' di pelo, ma roba molto molto tranquilla, sì. No, è che l'ultima volta, non lo so, ma forse devo aver un po' esagerato, perché sono arrivato veramente, veramente carico di gin tonic e living la vida loca. Non dovevo dovevi portarla tu? E io la figa la porto, ma devo saperlo prima che devo straccarla, che se no mi fate far brutte figure voi altri. Che a cioccolare siete tutti bravi. Oh, senti chi che parla, che ti fai ancora le seghe. Guarda che dai occhi si vede, ti consumi l'anima. Ma va là, il sesso è sesso. A volte meglio una buona amante e una cattiva femmina. E poi questa è tutta figa. Sì, allora questa è letto mare e questa è letto sorella. Non mito sorella, l'ho sverginata in terza media, intanto che tu ti consumavi l'anima in camera tua. Ed allora è diventata una vacca numero uno, che ancora tutti quei che la vede in giro gli pensa che la sia una gran troia. Non mi chiamano più alle cene. No. È che ogni tanto mi faccio prendere un po' la mano, no? Nulla di che. Così esagero e vado un po' da un'altra parte, cioè perdo un po' la testa, ma mi viene come una specie di fumeron, no? E poi non mi ricordo. Come Hulk. E mi viene un mal di testa che mi sale, mi fa tutte quante le vertebre, no? Una dopo l'altra, così fin su in cima e mi si infila dentro, in tel cranio, come un cortel freddo, ghiacciato. Beh, ieri sera sono quasi morto. Sì, cioè no, non sono morto, sono svenuto, ecco. Cioè, credo di essere svenuto perché ho tirato una tega con la testa entro la finestra del bagno, sì. Cioè, stavo cagando, ecco. Provavo a cagare, ma non usciva niente. Sì, cioè io spingevo, ma non usciva niente. Più spingevo, meno usciva. A un certo punto, non lo so, ma ho spinto così forte, ma così forte, che ho sentito come una scossa. E mi son girato. Mi son ribaltato, mi son realtà come un calzetto rovesso e ci son finito dentro. Cioè io, dentro a me stesso. E dentro è bellissimo. Dentro è magnifico. Cioè, sono come dentro un tubo, no? Bianco, fatto di ghiaccio, vado a manetta, vado a 2000, 3000 all'ora, non lo so, sono sbattuto da una parte, dall'altra, ma sto benissimo. Cioè, sto benissimo, sono Dio tremare, ma sto ben, sono come una specie di Dio, di Gesù Cristo, capisci tu? Cioè, ma una roba proprio, ma un Dio di qui che brusa, di qui che fracca, dove che passo io, tutto quanto diventa più grande, tutto quanto si desfa intorno a me. E a un certo punto, io ci mi pulsa la testa e ho anche le mani, no? Che le come che se avessi... Ho tirato una tega con la testa entro la finestra del bagno. E dopo mi sono addormentato. Seduto là in tel cesso con le braghe sbassate, sì. E ho sognato. O almeno credo di aver sognato, perché erano mesi che non sognavo o che non mi ricordavo. Sono in fondo al tubo di nuovo, sono di andare a 2000, sono di andare a 3000 all'ora, ma sto benissimo, è una roba veramente magnifica. Non sono mai stato. Dove sono? Dove sono finito? Sono in mezzo a una distesa dei capannoni abbandonati, guardali là, basta, abbandonati, non c'è più nessuna strada, tutte quante rotte. Rotte dalle radici degli alberi che vien su. Case familiari dove che sono già state, senza finestre, sì. Case senza finestre, intassate una sopra quell'altra. Sono dentro a una di queste case e penso, i coppe con le mani. Lì da quando che ho 4 anni che faccio karate servirà pure a qualcosa, no? Mia madre la ciappe con la sinistra, che la sinistra è sempre stata un po' più debole. Mi pare con la destra pare essere sicuro di farla fuori. Non è mica questione di volerci male. Non è una questione affettiva, non mi hanno fatto niente. I serramenti. È che mi fanno venire il nervoso perché io cambio e loro no. Io cresco e loro mi fanno venire il nervoso. Mi fanno venire il nervoso. E poi l'alluminio, no? Ti si fissa proprio in quel cervello e non va più via. Resta là per sempre. È colpa mia, sì. L'alluminio resta là per sempre. È colpa mia. No, no, ma cioè, è colpa mia. Sia chiaro, cioè, nel senso che è colpa mia o non è colpa mia? No, domando. È colpa. Ok, sì, grazie. Magari se questa volta qua, no, mi fai un taglio un po' più alto, meglio. Cioè, allora, se ce la fai, magari tieni un po' più corto il lato, però sopra abbastanza lungo. Ok, grazie, sì, no, è stato un incidente, ma non c'è problema. Sì, allora magari però cerca di... sì. No, così va bene, magari un po' più corto dell'altra volta, se ce la fai. Cioè, tienilo proprio un po' brava, così. No, no, vai. Torno sempre qua perché sei bravo proprio. Allora, grazie, no, ma è stato un incidente, non c'è problema. Allora, devi cercare di... Così va bene. No, bello, sì. Magari... non so, un colpo di piastra giusto per, proprio per fissarli, ecco. No, va tranquilla, ti ho detto, non c'è problema, grazie, condoglianze, a posto. Allora, sistema, ecco, se tiri su, perfetto, tanto poi sistemo io a casa, ok? Tanto dopo che sono a casa, sistemo io, va bene? Grazie. Sistema io. Allora stamattina ho ciappato l'africano che lavora da noi altri e l'ho portato giù in magazzino proprio sotto a Scafal, che si è ribaltato sul muletto e l'ho attaccato al muro. E gli ho detto: tu adesso parli, tu adesso mi spieghi, ok? Che tu a me non mi freghi. Puttana della zanzara maledetta, vieni qua. Troia schifosa, vieni qua. Puttana. Tu a me non mi freghi, ok? Tu a me non mi impindoli, va bene? Tu devi dire sei stato tu? Cioè tu devi dire che sei stato tu. E lui mi guarda così sorridendo, mi dice che sto perdendo di vista la situazione. Sto perdendo di vista cosa, fricante del cazzo? Sto perdendo di vista cosa? E lui continua ancora a guardarmi così, a sorridermi, e mi dice: tu non puoi capire, dal mio paese molti alberi. Ah? Cosa? E l'ho guardato come quando fissi un chiodo prima di martellarlo, e gli ho detto due cose. Se era così bello il posto da dove sei venuto, perché non sei rimasto a casa tua? Ma come cazzo parli? Ma come cazzo parli, oh? Ma te sei un operaio, sei mica un poeta, questo qua è un capanon, io sono un giovane industriale, ma che cazzo stai dicendo? Fate capire, non lo so, parla in italiano, fai quello che vuoi, cioè io uso parole che so quello che vogliono dire, ma tu che cazzo mi stai dicendo? Che ho tirato un cartone sul muso? Oggi sono 6 mesi. 6 mesi che piove. E 6 mesi che l'è morto. Non ha mai smesso di piovere dal giorno del funerale. 183 giorni. Li ho contati oggi, no? Stamattina in ufficio, perché li conto ogni giorno, no? Per vedere. Perché non è che basta fare. Cioè, non è che se tu fai 30 per 6 fa 180, però c'è qualche mese che ce n'ha 30, no? Un altro mese che ce n'ha 31, allora devi far 30, 31, 30. Vedo che mi rompe i coglioni adesso. Vedo che mi rompe i coglioni adesso. Cioè, stavo dicendo, no, che non è semplice, allora bisogna mettersi proprio là davanti a un calendario. Ancora. Insisti, vedo. Ancora. Insisti. Tutto proprio per me. Ascolta, adesso tu mi hai ascoltato, capito? Adesso mica te parle, va bene? Adesso mica te parle. Sei tu a dir che? Sei tu Dio a dir che? Ma alluminio? Ma sei tu fuori? Ma sei tu Dio a dir che? Ma che cazzo di roba? Ascoltami bene, allora. Posso parlarti anche a me una volta? Posso parlarti anche a me per una volta? Mi ascolti tu, no? Ma sta tranquillo. In Romania? Ma sei tu Dio a dir che? Ma sei tu Dio a dir che? Posso ascoltarti anche a me per una volta? Mi ascolti tu, no? Ma ascolti tu per una volta? O forse l'Ungheria. Per... In Ungheria io non ci vado, no. In Bulgaria io non ci vado. Io resto qua. Io resto qua perché... perché stasera mi tocca a me. Se non mi tocca a qualcun altro, mi tocca a me. Io sono il mio supereroe. C'ho un piano in mente, un progetto, una visione proprio, cioè spendere tutto quello che c'è da spendere, non mettervi a niente, no, intassare, non mettere da parte per il futuro, voglio tutto subito, qua, adesso. La storia del scarafaggio australiano la va avanti che dopo la schifezza la coppa anca sommare, bam! Ma non è mica una questione affettiva. Non è mica una questione di volerci male.